Era un'immensa grotta, grande come l'Agora di Atene, con templi, statue e giardini, ma tutto di marmo nero, della stessa roccia delle statuine di Eudosso. Non c'erano fiaccole, il cielo era pietra scura, eppure le stelle brillavano. Nell'enorme piazza aleggiava un riverbero di luce che illuminava statue e templi, senza che se ne accorgesse la fonte. Ero rimasta così affascinata da quella visione che mi ero dimenticata di Assiotea, ma i suoi singhiozzi mi fecero girare. Piangeva, il volto rigato di umida felicità, mentre sussurrava: Questa è la casa del cielo! E piangeva, schiudendo le braccia come a voler abbracciare tutta l'enorme grotta, tutto il cielo e tutte le statue e i templi che si estendevano ai suoi piedi. Anche Demos e Onai erano rimasti a bocca aperta. Era una visione di tale bellezza che ispirava un senso di pace intima, profonda. Demos prese Assiotea per mano, conducendola giù per le scale, per farla entrare nella casa del cielo. Io e Onai li seguimmo e cominciai a capire. Era tutto diviso in zone numerate, con scritte e cifre nella nostra lingua. Era la storia dei nostri avi. E tutto era stato scolpito in un unico gigantesco pezzo di marmo, grande come tutta la casa del cielo. I templi, le case, gli alberi, gli animali, le navi, le figure umane. Tutto era stato scolpito modellando un unico blocco di roccia scura, la stessa delle statuine di Eudosso. In alcuni luoghi c'erano dei vuoti irregolari nella base, come se vi fosse stato strappato qualcosa. La maggioranza delle statue rappresentava delle figure femminili. Una donna, sempre lo stesso bellissimo viso, scolpito a fissare un'aura di serenità, un volto simile a quello di Assiotea. La stessa espressione di pace sullo stesso volto nel corso della storia. Era stata la voce grave di Demos ad accompagnare i gemiti commossi di Assiotea. Lo scultore o gli scultori si sono ispirati a te. Tutta la pace di questa città parla attraverso il tuo volto. Anche lui era emozionato. Unai aveva gli occhi spalancati, la curiosità lo divorava. Ci seguiva, si soffermava in un tempio, poi sfiorava una statua più grande di lui e fissava incantato il viso della donna. Il volto di Assiotea. Assiotea, invece, col viso rigato di lacrime, aveva preso ad aggirarsi nelle varie zone. Noi la seguivamo mentre lei leggeva e commentava ad alta voce: Qui c'è la ricostruzione della storia umana. Da 40.000 anni! La casa del cielo è come un cimitero, un monumento con la storia dell'uomo. No, non la storia dell'uomo, Assiotea, e cercai i suoi occhi. Ma la storia della donna. Non leggi, non vedi. La storia di tutti i popoli ruotava attorno al ruolo della donna. Guarda, da 40.000 anni la donna partoriva nei templi. Era sacerdotessa, madre, medico, pensava all'educazione dei figli. E l'uomo era il suo compagno ed era un mondo di pace. Non c'erano spietati dei della guerra, ma solo la grande madre sorgente di vita. Guarda, Assiotea, non esisteva la schiavitù, non esistevano le armi. E la strattonavano e leggevamo insieme a voce alta. Fu lei a tirarmi per la mano, a leggere assieme a me. Ecco, ecco quando tutto è cominciato. In Egitto. In Egitto crearono il primo esercito di aggressione, 3.000 anni fa. E da quel momento in poi l'uomo è balzato a cavallo della storia e ci sono state solo guerre, guerre di aggressione. E da allora in poi la mano che ha tenuto il calamo in mano ha tenuto anche la spada. E l'uomo ha aggredito altri uomini e ha creato gli schiavi e ha reso schiava l'unica creatura che poteva fermarlo, la donna. Fu Demos a farci notare che il racconto finiva 1.000 anni fa. Qui a Tera ci fu l'eruzione di un vulcano sottomarino che mise fine alla storia di questo popolo pacifico. Ed allora la casa del cielo è rimasta nascosta e, aggirandosi attorno a un'altra area, ci chiamò. Lo raggiungemmo. Ecco la mappa delle miniere d'oro, vedete? Erano luoghi da evitare perché l'oro avrebbe potuto scatenare cattivi impulsi nell'uomo. Quindi la mappa c'era davvero. Non sappiamo come potessero avercela, ma il suo significato era opposto a quello che pensavamo noi. Era un monito, un avvertimento. Luogo da evitare. La sua voce produceva una specie d'eco che si diffondeva per tutta la casa del cielo. Il guardiano è venuto a conoscenza di questo luogo e ha ucciso per tenerlo segreto. Una voce sepolcrale e cavernosa rimbombò alle nostre spalle. Ci girammo di scatto. Sul piazzale dietro di noi c'era lui, la bocca rossa sorridente, con una ventina di arcieri con le frecce già pronte per essere lanciate. Lui, capelli neri e lisci, occhi bluastri, ma senza più la faccia allegra che conoscevo durante le lezioni all'Accademia e ai banchetti. Lui, il nipote di Platone, Pseusippo. Demos, non provare a fare un solo movimento, o sei morto. Era stata la voce nasale dell'uomo calvo accanto a lui a emettere quella frase secca. Piromaco, l'ufficiale del Pireo. Con la coda dell'occhio vidi Demos che si accostava ad Assiotea, quindi strisciando, frapponendosi fra lei e gli arcieri. Un ailo aveva perso di vista. Tremavo. Gridai: Sei tu il guardiano? Non poteva che essere uno dell'Accademia. Respiravo con affanno. Avevo paura per me e per i miei amici. Dovevo fare qualcosa per guadagnare tempo facendolo parlare. Forse a Demos veniva qualche idea. Come hai fatto a trovarti qui oggi? Un ghigno osceno gli deturpò i lineamenti. Quando Firomaco vi ha visti partire sulla nave sacra, abbiamo pensato che veniste direttamente qui. E siamo venuti a sistemarci nel paese aspettandovi. Prima o poi sareste arrivati. Sapevo che Assiotea vi avrebbe condotti qui. E quando poco fa abbiamo avvistato la trireme che approdava al porto, ci è bastato venire qui prima di voi, seguendo un percorso molto più semplice che abbiamo scoperto tanto tempo fa. Un altro ghigno beffardo. Purtroppo, questo posto comincia a essere un po' troppo frequentato ultimamente, ma non sappiamo come distruggerlo. Al massimo si riesce a rompere qualche statuina, il resto è impossibile per tutti i ciclopi. E allora non resta che vigilare, vigilare ed eliminare i curiosi. Quindi hai fatto uccidere mia madre, per paura che lei avesse visto i disegni nella copia del grande ordinamento di Leucippo. E l'ordine te l'aveva dato Platone. La rabbia di Assiotea si scioglieva in gemiti di dolore. Mio zio non ha bisogno di comandare. Basta che lui faccia capire che quella persona è un po' troppo curiosa, che è una persona scomoda e io, che ho i suoi stessi interessi, lo accontento prima che lui apra bocca. Cosa credevi, Assiotea? Che potessimo rivelare ai popoli che finché le redini del comando le ha avute la donna, la terra è stato un mondo di pace? Povera sognatrice, è la guerra che fa progredire la specie umana. Con la guerra puoi rendere schiavi popoli interi. Con l'oro puoi avere tutto ciò che vuoi. Per questo devono essere sacrificati i sognatori come te, come Eudosso, come Democrito, gli atei, i cinici, tutti quelli che predicano l'uguaglianza, la comunità dei beni. E Pseusippo fece qualche passo in avanti, scendendo due gradini, avvicinandosi, mentre noi restavamo sempre sotto il tiro dei soldati. Assiotea, lo sguardo ingentilito, scrutò il gruppo degli arcieri. Tu sei quello che mi porse la coperta nella prigione di Socrate la sera dopo l'assemblea in cui parlai per l'abolizione della schiavitù. Foco, l'arciere più spietato che abbia mai conosciuto. E Pseusippo indicò il colosso dai capelli rossi, col labbro inferiore mancante e la cicatrice fino all'occhio. Fu lui, a riprendersi la copia del grande ordinamento a casa tua, uccidendo tua madre. Assiotea si girò di scatto verso di me. L'astenia, tu lo sapevi. Sosippo prese a ridere sguaiatamente. No, Assiotea, te lo giuro, chiedilo a lui. È un assassino, ma perché dovrebbe mentire? Disperata. Vedevo Demos che sembrava un leone in gabbia, i muscoli tesi, pronto a lanciarsi su Pseosippo. Solo che questi avesse fatto qualche altro passo verso di noi. E io non potevo permettere che Assiotea morisse, e che morisse pensando che io avessi qualcosa a che vedere con l'uccisione della madre. E allora feci due passi avanti e coprii un po' Assiotea, rivolgendomi all'arciere. Foco, ti prego. Tu hai fatto l'amore con me, ti ho fatto felice, ho baciato quella tua povera bocca come se fosse la più bella del mondo, mentre al tuo padrone, Pseosippo, ho baciato il fallo, ma la bocca, mai. Foco, ti prego, in nome del tuo innominabile dio della guerra, di ad Assiotea che io non sapevo nulla. Gli sanguigni del gigante si mossero di scatto verso Pseosippo, poi lentamente tornarono su Assiotea. Con una voce sorda e sgarbata le disse: L'astenia non sapeva niente. Fu il momento in cui si scatenò il finimondo. Vedemmo un arciere cadere a terra, fuoco girarsi di scatto, un altro arciere crollare ferito mortalmente e un sibilo acuto. Il fischio di un'ai prese a echeggiare per l'intera casa del cielo. Demos prese a lanciare coltelli, Firomaco stramazzò al suolo, Pseosippo si piegò dolorante. Demos mi urlò di fuggire con Assiotea. Assiotea gridava di no, lanciandosi in avanti verso fuoco. Demos lanciò un coltello all'arciere, il gigante cadde in ginocchio. Assiotea gli fece la spada, gli prese la spada. Si erse a protezione del suo uomo. Un'ai sibilava e gridava di fuggire, un altro soldato cadde colpito. Pseosippo urlava agli arcieri di ucciderci tutti. Assiotea gridava di non ascoltarlo perché lui rappresentava il male e riuscì a raggiungerlo mentre Demos lanciava il suo ultimo coltello a un arciere. Assiotea ricevette la prima freccia a una spalla, poi un'altra sul fianco. Il capo fiero vacillò. Un'altra freccia nella gola. Cadde in ginocchio. Infine una punta acuminata nel petto e Demos urlava, raccoglieva la spada e menava fendente a destra e manca, mentre i soldati si precipitavano su di lui, lo trafiggevano con le lance e Assiotea, grondante sangue, ferita a morte, riuscì a estrarre la punta del suo flauto, a trascinarsi e colpire più volte Pseusippo alle gambe, fino a quando lui strappò la spada dalle mani di Demos, che sanguinava morente ai suoi piedi. Ad alzarla, a girarsi, e mentre io gridavo di non farlo, lui, demone del male, la calò nel cuore di Assiotea. Le gambe imbrattate di sangue. Il guardiano ordinò agli arcieri superstiti di non ammazzarmi. Mi legarono le mani dietro la schiena. In quattro dovettero afferrare Pseosippo per trasportarlo, mentre lui emetteva grida infernali e i mostruosi occhi di Cerbero frugavano increduli nelle profonde ferite che Assiotea gli aveva inferto. Ero disperata e distrutta. Mentre mi trascinavano via dalla casa del cielo, gettai un'ultima occhiata ad Assiotea che giaceva in un lago di morte, una mano inutilmente protesa verso quella di Demos. Sul bel volto sporco di sangue, gli occhi verdi di quella creatura ancora ardevano con l'intensità della suprema disperazione e del supremo dolore per quel canto incompiuto. Epilogo. Molti anni sono passati da quel giorno. Dall'infausto giorno in cui i bellissimi occhi di Assiotea si alzarono stupiti sul cielo stellato della casa del cielo, per poi essere strappati alla vita, ardenti di dolore per la fine del suo sogno incompiuto. Da quella nefasta giornata, divenni prigioniera dello spietato guardiano Pseusippo, rinchiusa in una casa fortificata ai margini della città di Tira, sull'isola di Tera. Non tentai mai di fuggire. Gli arcieri di guardia avevano l'ordine di ammazzarmi al primo tentativo di fuga. Dovevo sopravvivere a qualunque costo per mantenere la promessa fatta da Siotea, completare la scrittura della storia della sua vita, farne delle copie con la speranza di affidare ai posteri le vicende della Casa del Cielo. Pseusippo cercò di curarsi le ferite alle gambe, ma le lesioni erano state così gravi che non poteva mai più camminare. Doveva trascinarsi per terra o essere trasportato a braccia. Divenne collerico. Non mi permise di lasciare la casa e l'isola una sola volta, facendomi marcire per 8 lunghi anni. Ancora adesso non so spiegarmi il perché mi abbia lasciata in vita. Diceva che gli servivo a tenere acceso in lui l'odio verso coloro che volevano cambiare il mondo. Coloro che pretendevano di spezzare l'armonia e le certezze create da Platone. Io ero l'erede di Assiotea e dovevo assistere al crollo totale del vaneggiamento dell'infernale creatura di Flionte. Pseusippo stava lontano mesi, poi tornava per qualche settimana, andava a farsi dei bagni in una località dell'isola dove sgorgavano acque calde che lenivano il dolore alle gambe. Mi raccontava le novità del mondo, studiava come distruggere la grotta della Casa del Cielo, ma era costretto ad esistere, perché quel posto degli inferi era stato costruito con una roccia indistruttibile. Poi si consolava, dicendo che andava bene anche così. Quella grotta sarebbe servita da monito per tenere l'attenzione sempre desta in lui e nei guardiani futuri, perché poteva sempre nascere un'altra Siotea. Il male poteva assumere le più strane sembianze. La prima volta tornò in primavera, nel mese di Elafebolione, e mi mise al corrente delle prime novità. Platone era morto e aveva lasciato a lui l'Accademia, sia la proprietà che la direzione. Quel presuntuoso di Aristotele invece era scappato portando con sé Teofrasto e altri, sebbene lui, Pseusippo, avesse lasciato intendere che era disponibile a un parziale rifiuto della dottrina platonica delle idee. Gli ateniesi si erano decisi a mandare nella penisola calcidica un piccolo contingente di navi e di peltasti agli ordini dello stratega Carete e un altro dall'Ellesponto agli ordini di Coridemo. Ma il Macedone li aveva sbaragliati senza sforzo. E quando Atene aveva inviato un altro pugno d'uomini, Olinto e le altre città della penisola calcidica erano già cadute sotto la dominazione macedone. Ogni volta che Pseusippo tornava a Tira, mi tormentava sempre ubriaco con le sue considerazioni filosofiche sui numeri, su quel mondo fittizio che si era costruito per poter giustificare lo schifo della sua vita. E io ero costretta ad ascoltarlo, ad assecondarlo. Capivo che la mia sopravvivenza era legata solo a quel mio ruolo di allieva passiva, mentre lui a chiacchiere diceva che potevo esprimere le mie idee in piena libertà, senza rendermi conto che io ero sua prigioniera e che una schiava, per poter parlare senza freni al suo carceriere, prima deve rompere le catene fisiche che la imprigionano. 8 anni dopo, il secondo anno dei 110 Giochi Olimpici, l'anno in cui in Atene Lisimachide era arconte, Pseusippo giunse alla fortezza di Tira in una tiepida giornata di primavera. Aveva 54 anni, ma dal giorno in cui aveva perso l'uso delle gambe era invecchiato in modo pauroso. Continuava a non arrendersi, andava a immergere per giornate intere le gambe paralizzate nei fanghi caldi. Capelli bianchi, lunghi, untuosi, grasso, ubriaco. Quella sera mi fece chiamare da Teutamo, il capo degli arcieri, e volle che io lo raggiungessi sulla terrazza. L'argento di una notte lunare illuminava il mare. Spirava un'arietta libera. Mi fece sedere di fronte a lui. Il chiaro di luna rivelava tutta la ripugnanza di quel volto da Cerbero. Schifo, ribrezzo. Questo provi. Oggi è una giornata particolare. Puoi mostrarlo apertamente, visto che siamo giunti alla fine del viaggio. Svuotò in un sorso la caraffa. Prima che tu mi raggiungessi, ho bevuto la cicuta, mezza clessidra e ci salutiamo. Avevo una voce sgradevole e soffocata. Gli occhi si indovinavano torvi. Sai chi mi ha dato l'ultima spinta a prendere la cicuta? Quel pezzente di Diogene, pochi giorni fa all'agorà di Atene, sotto il portico Basileus. Mi trascinavano due schiavi. Mi ha visto in queste condizioni e mi ha detto che uno come me, uno che vive senza ideali, solo attaccato ai piaceri della vita, la cosa migliore che poteva fare era bere la cicuta. Fece un rutto orribile. L'aria pulita venne offuscata dal fetore del suo alito. Quel pezzente deve aver intuito che il guardiano sono io. Mi ha accusato di aver fatto sparire Tea, Siotea e Demos. Mi ha sputato in faccia, ma dopo ho capito che aveva ragione. Quella sporca nullità aveva ragione. Diogene non è una nullità. Avevo trovato il coraggio di essere sincera. Pseusippo si attaccò a un'altra caraffa di vino. Questo pensiero non è tuo, l'astenia. La sua voce era sempre più fioca. È Assiotea che parla. Tu non eri così prima di frequentare quella figlia degli inferi. Ed eruttò putredine e schifo. Non riuscivo a trattenermi. Sentivo che dovevo rispondergli a qualunque costo. Assiotea spaventa te? Tuo zio è Aristotele, perché metteva nudo la vostra coscienza. Vi sbatteva in faccia la vostra condizione di poveri prostituti. Vedi, guardiano, io ho fatto la puttana fino a oggi, ma sono onesta, non inganno nessuno. Tu, tuo zio e lo stagirita, invece, siete stati costretti a studiare giorno e notte per far apparire lo schifo della vostra condizione, come un bene, come la verità. Ma come potete pensare che Madre Natura sia così bastarda? Gli schiavi nascono inferiori per natura, la donna è uno scarto della natura. Non riuscivo a tenere a freno la mia indignazione, ricordavo Assiotea, la sua rabbia luminosa. Un giorno siete venuti a conoscenza della Casa del Cielo e per te, tuo zio, deve essere stato il pericolo più grosso che avete corso nella vostra vita. La storia senza guerre. Un mondo di pace e di giustizia, con la donna protagonista assoluta. E tu e Platone, per difendere la vostra sporca vita di privilegi, per poter organizzare un banchetto ogni giorno, per poter ricevere mezzo fiume Eridano e lavare le vostre sozzure, per non lavorare, siete stati costretti a prostituire la vostra mente, a scrivere trattati di filosofia per convincere i popoli che si nasce liberi o schiavi. Gridavo accorata. Io non so se in natura esiste il bene e il male, ma se esiste, tu e tuo zio rappresentate il male. Lo fissavo con la rabbia repressa in tutti quegli anni, e la cicuta che hai bevuto non cancellerà quello che hai fatto. Rantolava, provò ad afferrare la caraffa di vino, ma non ci riuscì. È stomachevole sentirti blaterare. Parli. Parli come lei, come quella maledetta sognatrice. Ma questo è il tuo ultimo dono. Lasciarti sfogare, il mio ultimo regalo. Appena morirò, tra poco Teutamo ti ammazzerà. Poi taglierà la gola a tutti i suoi uomini e tornerà ad Atene. E lì ci sarà qualcuno che taglierà la gola a Teutamo, cancellando l'ultimo testimone. È così, figlio del male? Avevo gridato disperata. Un disgustoso rigurgito. Vomitò, occhi sbarrati, ma riuscì a trovare la forza per strascicare la sua voce cavernosa. Proprio così l'astenia. Così le forze del male mi saranno grate per aver svolto fino in fondo il mio ruolo. E si accasciò sulla panca. Mi girai spaventata, gridai, chiamai Teutamo. Non era giusto che tutto finisse così. Guardavo la bellissima luna oltraggiata da quella putrefazione umana. Invocavo Assiotea. Aiutami. Il tuo spirito è dentro di me. Devo finire il tuo libro. Teutamo, Teutamo, hai sentito? Teutamo, hai sentito? Un rumore dalla scala apparve il capo degli arcieri. Ho sentito! Solo allora cominciai a liberare il mio pianto. Teutamo e i suoi uomini partirono il giorno dopo per una destinazione che non vollero rivelarmi. Io trovai posto su una nave mercantile per un'isola in cui sto trascorrendo il resto della mia vita. E riuscii a mettermi in contatto con Ofione, che aveva dovuto lasciare Atene perché non gli era stato rinnovato il permesso di straniero residente. La libreria Papiri aveva chiuso i battenti, ma Ofione mi fece pervenire la cassetta con il libro che Assiotè aveva scritto fino alla nostra partenza per la missione del Pangeo. I capitoli di quella missione li ho finiti di scrivere io. Adesso sono vecchia. Ormai la mia vista e il mio calamo tremano, ma ho mantenuto la promessa. Ho fatto molte copie di questa storia affidandole a mani che bruciavano di fiducia, a cuori debordanti e entusiasmo per un mondo meno ingiusto e spietato, con la speranza che la storia di Assotea venga divulgata. Di Unai e Aroa, oltre a me, gli unici scampati alle catombe del Pangeo e all'agguato di Tera, non posso raccontare nulla in questo libro. Struggente come il ritmo segreto della vita, mi resta il ricordo della bambina disperatamente abbarbicata al collo di Assiotea, mentre ci accingevamo a lasciare la trireme per incamminarci verso la casa del cielo. E continuo a pensare che il labirinto insanguinato di questa storia non sia stato inutile. Deve avere un senso nell'enigmatica trama della vita. Dove vivo, ogni tanto, mi giungono le notizie del mondo e di Atene. L'anno dopo la mia fuga dall'isola di Tera ci fu un terremoto di violenza spaventosa che sconvolse l'isola, cancellando ogni traccia utile per poter accedere alla casa del cielo. Ci fu inoltre lo scontro finale tra Filippo il Macedone e Atene, alleata con Tebe. Iperide aveva raccolto ancora una volta tutti i cittadini di Atene presentando l'ultima supplica, dare la libertà a tutti gli schiavi e formare con essi il più coraggioso esercito del mondo per fronteggiare il pericolo macedone che ormai era alle porte. Ma anche in quell'occasione i 300 uomini più ricchi della città riuscirono a convincere gli oltre 9.000 ateniesi liberi a non ascoltare quel sognatore, a respingere la sua supplica. Pochi mesi dopo, a Cheronea, il piccolo esercito ateniese venne sopraffatto da quello macedone. Bastò il giovane figlio di Filippo, di 18 anni, Alessandro, a sbaragliarlo. Atene, che si vantava di avere come cittadini un popolo di dei, perse la libertà per sempre, ma continuò a riempire le miniere dell'aureo di donne e soprattutto di bambini minatori. Coridemo fu bandito dalla città per imposizione di Alessandro il Macedone. Si rifugiò in Asia presso Dario, ove morì pochi anni dopo. Gli ateniesi avevano inutilmente tentato un ultimo disperato tentativo di rivolta nella guerra alla Miaca, con Iperide stratega a capo di uno sparuto gruppo di opliti, e in quel frangente il generale di Alessandro il Macedone, Antipatro, fece catturare Iperide mentre fuggiva nell'Argolide cercando alleati per formare il più grande esercito del mondo, dando la libertà agli schiavi. Mentre i soldati macedoni davano la caccia a Iperide, Aristotele, accusato di impietà dagli ateniesi, preferì non rischiare l'esito di un processo e fuggì a Calcide, dove morì pochi mesi dopo, completando le opere di filosofia in cui rifiutava il credo di Platone sull'immortalità e sulla divinità dell'anima, rifiutando anche la dottrina in cui Platone predicava che la nostra vita non è altro che un ripercorrere i passi fatti in vite precedenti, perché questo avrebbe annullato ogni sforzo dell'uomo per progredire e per migliorare la sua condizione. Aristotele aveva elaborato inoltre la scienza della logica, che ricerca come si deve pensare e ragionare, esercitando sempre il potere critico della ragione. Platone non continuò a vivere in Aristotele. Il seme gettato da Assiotea nell'Accademia era germogliato nell'allievo di Platone, che più di tutti asseriva che gli schiavi erano conformi alla natura e una necessità storica. Il filosofo che disprezzava il ruolo della donna nella storia, definendola uno scarto della natura. Mentre Aristotele moriva, Iperide venne catturato nella città di Ermione, nel tempio di Demetra, dove si era rifugiato. Antipatro comandò che venisse portato molto lontano da Ermione, in una città vicino Fliunte, a Cleone, nel tempio di Eracle, proprio dove aveva conosciuto Assiotea e dove il sacerdote gli aveva predetto che un giorno sarebbe tornato per offrire al dio la sua vita, affinché i leoni smettessero di azzannare le pecore. Iperide fu giustiziato con torture che mai erano state inflitte a un soldato e soprattutto a un generale, ma Antipatro volle mostrare un'eccezionale ferocia in questa esecuzione. Per soffocare e stroncare l'idea che Iperide stava cercando di seminare, l'abolizione della schiavitù. Era una tiepida mattinata autunnale del mese di Boedromione, del terzo anno dei 114esimi Giochi Olimpici, mentre in Atene correva l'anno di Cifisidoro. I carnefici macedoni mozzarono la lingua a Iperide in modo che mentre lo smembravano vivo non potesse gridare. Lo fecero a pezzi lentamente, fino a cavargli gli occhi quando gli rimaneva ancora qualche brandello di vita, strappando la luce a una delle poche voci libere dell'Ellade. Il giorno 12 dello stesso mese, Demostene apprese l'orribile sorte toccata a Iperide. Preferì suicidarsi con la cicuta piuttosto che cadere nelle grinfie dei sicari di Antipatro, anche perché il suo nome era stato trovato nel libro Paga del re di Persia. Diogene, conosciuto alla fine di Iperide, capì che il sogno di Assiotea, l'abolizione di ogni tipo di schiavitù in un mondo senza guerre, non si sarebbe mai avverato. Aveva 90 anni. Lo trovarono morto pochi giorni dopo il suicidio di Demostene nel bosco dei cipressi del Craneo a Corinto, tutto avvolto nel mantello, ormai quasi cieco, nudo, abbracciato al suo inseparabile bastone. 4 anni dopo, il 19° giorno del mese di Munichione, Focione veniva ingiustamente condannato a morte dall'assemblea come traditore, sostenitore dell'oligarchia e nemico del popolo. Gli sputarono in faccia. Era finita la poca cicuta che passava lo Stato e per evitare d'essere precipitato dall'acropoli o gettato nel baratro, dovette chiedere a un amico che gli prestasse 12 dracme per approvvigionarsi della dose di veleno necessaria per morire. Compariva così una delle più nobili figure della democrazia ateniese, condannata dalla plebaglia ignorante che si faceva trascinare da ricconi, sicofanti e filosofi, quella stessa plebaglia che si era fatta convincere che la donna era uno scarto della natura e che apparteneva a una razza maledetta. Con l'uccisione di Assiotea, il massacro di Iperide e la complicità di Platone e Aristotele, poteva continuare a realizzarsi quella storia spietata che da oltre 3.000 anni negava agli schiavi e alla donna non solo il diritto di esistere come esseri umani, ma anche quello di lasciare una traccia della loro esistenza. Fine.